известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. This is the David Letterman joke that started the firestorm. One awkward moment for Sarah Palin at the Yankee game. During the seventh inning, her daughter was knocked up by Alex Rodriguez. Dai, venerdì cominciamo in allegria, senza esagerare, insomma, prima di immergerci nelle notizie importanti, serie, diamo spazio in apertura a questa ultima rissa mediatica, mi sembra costruita d'arte da tutti i protagonisti, in particolare da Sarah Palin, ex candidata repubblicana insieme a John McCain alle presidenziali 2008, e dall'altra parte David Letterman, il più famoso conduttore televisivo di programmi comici negli Stati Uniti d'America. Ebbene, Sarah Palin è sempre stata nel mirino di Letterman, adesso ha fatto la Palin un viaggetto a New York in compagnia della figlia 14enne, e naturalmente Letterman non si è fatto sfuggire la notizia e l'ha infiorettata, l'ha condita a modo suo. Insomma, ha detto che notizie certe informavano dallo stadio del Bronx, dove giocano gli Yankees, la famosa squadra di baseball americana, che nel corso del settimo inning Alex Rodriguez, no, lo stallone di Madonna, nonché membro degli Yankees, avrebbe messo incinta la piccola Palin. E poi ha anche aggiunto: la parte più difficile però della visita della Palin a New York è stata tenere lontano dalla figlia della governatrice dell'Alaska Palin l'ex governatore dello stato di New York Elliot Spitzer, quello costretto, forse come ricorderete, al ritiro precipitoso dall'attività politica per uno scandalo a luci rosse. Sara se l'è presa a morte, e con lei Todd, il potenziale first husband, insomma il campione mondiale di corse in moto slitta. Hanno fatto una protesta estremamente dura nei confronti di Letterman, hanno scritto ai giornali, sono fatti intervistare, e Letterman ieri ha fatto una specie di scusa, anche se molto mascherata, forse anche un po' troppo mascherata. Ha detto che insomma loro sono solo dei guitti, fanno le battute, lo sanno, certe volte le battute che fanno un po' schifo, ma che volete farci? Noi siamo qui per farvi fare quattro risate prima che andate a dormire, provate a perdonarci. E poi soprattutto l'ha invitata, ha invitato Sarah Palin a partecipare al programma. Sarah Palin per ora ha detto no, ma si sa, su queste cose si cambia idea. Fine dell'interludio leggero della puntata del venerdì di Jefferson, e invece spazio alle notizie serie, che peraltro stanno occupando uno spazio notevole anche nell'informazione italiana. La cosa ci sorprende ma ci rallegra: la politica estera sta ritrovando spazio anche nell'informazione italiana. Si parla naturalmente di Iran, una affluenza massiccia alle urne si sta registrando in Iran nel corso delle elezioni presidenziali che per tutta la giornata porteranno gli iraniani a votare. C'è una importante percentuale di donne che vanno a votare, che tornano a votare. C'è un interessante articolo di Adib Fateh su Apicom, scritto poche ore fa, che racconta di aver parlato con amici a Teheran. Dicono che gli abitanti di Teheran sembrano tutti compatti nel sostegno a Mousavi. Dice: se valesse qualcosa il sondaggio che ho fatto con le mie telefonate, il risultato sarebbe sorprendente. Ma noi proviamo a questo punto a procedere invece a un'analisi un po' più approfondita sugli scenari che si potrebbero creare, grazie alla partecipazione del nostro ospite abituale, ovvero Maria Grazia Enardu, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, ma oggi la mandiamo leggermente in trasferta, perché poi, peraltro, quale stato più di Israele sta seguendo, temo, queste elezioni. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Tanto per cominciare, è vero, da Israele stanno guardando, e con che animo, a tuo parere, stanno guardando al voto di oggi per le presidenziali iraniane? di estremo interesse e forse anche di una qualche ansia, perché Ahmadinejad è un fattore noto per certi versi affidabile, anche in negativo. Con Mousavi bisognerebbe rivedere tutta una serie di categorie, quindi una revisione politica sarebbe da aggiungere agli altri problemi di revisione che Israele ha in questo momento nei suoi rapporti con gli Stati Uniti e con buona parte del mondo, quindi è sicuramente seguitissima. Poi, semmai, quello che interessa a tutti noi, anche a me moltissimo, è questa ondata di votanti che è molto alta per due ragioni, sia perché è un paese molto popoloso, quindi a ogni elezione si affacciano alle urne nuovi numeri, nuovi elettori, sia perché l'altra volta, quando Ahmadinejad vinse soprattutto per una forte astensione. Quindi gli elettori nuovi del 2009 sono anche quelli che nel 2005 sono rimasti a casa. Ecco, ma parliamo un attimo di elettorato femminile, ma insomma, parlando in termini diciamo un po' semplificati, ma è veramente possibile che questo compatto, robusto, numericamente interessante elettorato femminile in una percentuale che non sia quasi bulgara non voti proprio per Mousavi? Mi sembrerebbe sorprendente, diciamo, no? L'elettorato femminile è molto più articolato di quanto forse noi non crediamo, si parla anche di sostenitrici dell'attuale presidente, però il fatto che sia molto presente è di per sé una forte garanzia anche politica, anche di futuri cambiamenti, anche perché quello che va sottolineato dell'elettorato femminile iraniano è che è straordinariamente colto, nelle università c'è un 65% di studenti donne, sono talmente tante le studentesse università che l'anno scorso vennero introdotte le quote azzurre, perché altrimenti se non si difendeva un 30-40% di posti per i ragazzi, le ragazze rischiavano di monopolizzare le università. E questa presenza così colta, comunque vadano le elezioni, è un fattore di cambiamento anche in futuro. Le prossime elezioni e il prossimo status dell'Iran, perché chiaramente sono ragazze che educheranno le loro famiglie in modo molto diverso da come sono state educate le loro madri. Qualche giorno fa, parlando con Alberto Negri, l'inviato del Sole da Teheran, abbiamo raccolto una testimonianza, come dire, di fiducia. Ci ha detto: sono convinto, metterei quasi una mano sul fuoco sulla pulizia, sulla limpidezza, sulla correttezza di questo voto. Tu condividi questa previsione, questo auspicio, naturalmente anche espresso dal nostro giornalista? Sì, credo che sì, ci sono anche degli istituti di controllo più o meno ufficiali, alcuni anche gestiti da Rafsanjani, e il clima è talmente buono che le guardie rivoluzionarie, che chiaramente appoggiano Ahmadinejad, hanno anche minacciato che se le cose non andassero come loro vogliono faranno uno sfracello, lo dicono, poi magari non lo faranno. In ogni caso, probabilmente si andrà a un ballottaggio e in ogni caso il paese ne uscirà polarizzato, chiunque vinca l'altra parte non sarà contenta, quindi comunque vada poi ci sarà bisogno di un periodo di assestamento che potrebbe essere la base di ulteriori progressi, ripeto, chiunque vinca. Non hai la sensazione che l'immagine che di sé l'Iran, soprattutto attraverso naturalmente le telecamere, le programmazioni televisive e giornalistiche di questi giorni, in occasione di questa elezione, l'immagine che di sé l'Iran sta offrendo al mondo sia in un certo senso positiva, sicuramente tranquillizzante rispetto invece a quella ridda di appelli spesso assai pesanti, in certi casi addirittura catastrofistici o tesi a criminalizzare magari la nazione nel suo insieme. Quello che si vede dalle immagini televisive mi sembra possa essere anche un contributo, un inizio anche per come dire, un abbassamento dei livelli dell'ansia, se me la passi. Credo di sì, io ho visto immagini tra i giornali di ragazzine vestite di verdi, molto giovani, con chador che io non ho visto, invisibili, che urlavano il loro entusiasmo non tanto per Mousavi ma addirittura per la signora Mousavi, e questo è un fenomeno che io non riesco a vedere in nessun altro paese medio orientale, men che mai arabo, e ricordiamo che l'Iran non è un paese arabo. D'altra parte, per incredibile che a noi possa sembrare, nel mondo sciita, in particolare nel mondo sciita iraniano, la cultura, il progresso e il rinnovamento sono volani importantissimi. Questi non sono talebani, sono sciiti, certo, iraniani, certo, con una lunghissima e orgogliosissima storia, e di questo orgoglio anche noi dovremmo essere partecipi. Certo, quella capacità di distinguere e di non generalizzare di cui parlavi prima. Per concludere, Maria Grazia, ti sottoporrei questo sondaggio che forse hai visto, che riguarda invece Israele, che di solito è il centro di interesse dei nostri, delle nostre conversazioni, riguarda il 56% delle persone intervistate dall'Istituto Magar Mohot, che ha dichiarato, quasi quindi 6 israeliani su 10 ritengono che il primo ministro Netanyahu dovrebbe opporre resistenza alla richiesta degli Stati Uniti di fermare definitivamente la politica coloniale dello Stato ebraico. C'è c'è un margine di errore, ma comunque sembra che la maggioranza si esprima in questi sensi. Ti sorprende, e come dobbiamo interpretare questo dato anche sul breve termine? Non mi sorprende, ma dalla mia relativamente lunga esperienza di sondaggi in Israele c'è questa soglia magica del 60% che a volte si esprime in modo assolutamente contraddittorio. Ti faccio un esempio: il 60% vuole la pace, il 60% vuole il ritiro, ma il 60% vuole tenersi gli insediamenti. E allora? C'è un 120% in Israele. E la matematica dei sondaggi israeliani, al di là del margine di errore costruito in tutti i sondaggi, va interpretata in modo abbastanza sofisticato e non alla lettera. Va bene, questo è un messaggio estremamente filosofico, ci vogliamo riflettere, lo faremo nel weekend. Intanto ringraziamo della sua partecipazione anche oggi a Maria Grazia Enardo. Sinistro, quello giusto. Forse già lo sai che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva: sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco. Insomma, una canzone che dice: ho deciso di perdermi nel mondo, non poteva non trovare naturalmente spazio in in scaletta a Jefferson, in fondo è quello che facciamo tutti i giorni, speriamo di non perderci proprio sempre, insomma, di tornare a casa. Era Morgan, il suo primo album solo. Continuano ad arrivare notizie nel frattempo da Teheran, si viene a sapere che le operazioni di voto sono state prolungate di almeno un'ora a causa della alta affluenza alle urne. Forse l'avrete vista o intravista in televisione, ci sono letteralmente file lunghe e lente al di fuori dei luoghi che ospitano i seggi elettorali. Il Ministero dell'Interno ha precisato che la chiusura è prevista alle 19 ora locale, altri prolungamenti potrebbero poi essere annunciati più tardi, in modo comunque di far votare tutti. L'affluenza è superiore al 70% rispetto alle partecipazioni di circa il 60% degli iraniani 4 anni fa. Tra l'altro è impossibile mandare un messaggino, un sms in queste ore a Teheran, sono bloccati, è bloccato il servizio di messaggistica telefonica, perché è stato sfruttato, e in questi momenti ovviamente viene sfruttato nel modo più temibile, più terribile, più totalizzante dai candidati. Vi arrivano, in pratica accendete il telefonino, vi arrivano una sfilza di messaggini che vi invitano a votare per l'uno o per l'altro candidato. A un certo punto probabilmente vi scocciate e chiudete il telefonino in questione. Per oggi non si parla di mandare messaggini a Teheran. E chiudiamo questa prima parte del programma con una nota. Ieri, insomma, eravamo rimasti sorpresi dall'articolo che avevamo letto, poi avevamo deciso così di sorvolare, perché ci sembrava prima di tutto un déjà vu, ci si era già passati di recente, e poi veramente un articolo scritto come se il mondo fosse ancora talmente grande che chi è in Italia non ha modo via internet di leggere il New York Times, e ciò che il giornalista, scrittore, editorialista Timothy Egan ha scritto in relazione al caso Amanda Knox in un articolo intitolato Una innocente all'estero, che francamente oltre a gestire una cronaca così abbastanza fantasiosa, un po' cinematografica del caso dell'assassino di Perugia, della ragazza inglese Meredith, e della partecipazione di Amanda Knox ai fatti in questione, oltre a rendere tutto un po' troppo cinematografico, poi dipinge un quadro dell'Italia, delle istituzioni, della polizia italiana, di un processo italiano che francamente appartiene, vorremmo che appartenesse, diciamo, se non altro al XX secolo, ormai abbiamo già dato in questo senso. Oggi CNN rilancia addirittura pochi minuti fa, è arrivata in prima pagina sulla home page CNN edizione americana, attenzione, non edizione internazionale, quindi i media americani si stanno buttando su Amanda Knox. La notizia in cui Amanda Knox starebbe dicendo ai giudici di aver parlato sotto gli effetti delle droghe, di non essere presente a se stessa, di essere stata presente a se stessa durante le prime ammissioni, ed è stata ribattezzata. Ormai per la ragazza di Seattle c'è un soprannome assai discutibile, la chiamano Foxy Knoxy. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Talking about gas, traps, cops and robbers. It's 911, please call the doctor. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You bout to catch a cold, stay the fuck from around me. Your peeps talking about what kind of shit's he on. You'll disappear like poof, bitch be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. Some punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now your car just stopped on an empty tank. Boy, what you gon' do? Act a fool. If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do. Act a fool. If you bout to get drunk and you ready to mob, boy, what you gon' do? Act a fool. Let's take it to the streets, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just there, so I love to park it. And I just put a computer in the glove compartment. With my pedal to the floor, radar in the grill. TV in the middle of my steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. More speakers in the trunk than my ride can handle. Got my name in the headrest, read it and weep. Nice tank in the back, camel hair on the seat. And when I pull up to the club, I get all the affection, cause the women love the pain and they can see their reflection. I'm Insomma, Roma si sta ancora rialzando dal passaggio che non è sicuramente passato sotto silenzio di Muammar Gheddafi, la città, come dire, è un po' stordita dai movimenti frenetici a cui ha costretto la sua carovana e anche dai dialoghi col diavolo, insomma, che ha imbastito in parecchie occasioni nel corso di questa sua 3 giorni italiana. Naturalmente le prime pagine dei giornali sono occupate oggi, dei giornali italiani sono occupate oggi da quelle dichiarazioni, da quei confronti, raffronti, perlomeno spericolati, a dir poco spericolati, che Gheddafi ha pronunciato tra l'attacco del 1986 dell'America di Reagan alla Libia e quello che è successo l'11 settembre 2001 e a seguire, dicendo frasi come: quale differenza c'era tra l'attacco degli americani 86 contro le nostre case e le azioni terroristiche di Bin Laden? Gli americani attaccarono per uccidere Gheddafi e i suoi figli, non è questo un atto terroristico? E poi ha difeso Saddam, l'avete accusato di essere un dittatore, che c'entrate voi? Il popolo iracheno accetta di votare per un dittatore, per quale motivo ingerite? Tutto questo dopo che sembrava che le cose con gli Stati Uniti si fossero, diciamo così, per usare una parola vecchio stile, aggiustate in un certo senso. Per parlare di questo, ma anche di altri temi di grande interesse che sono in circolo attorno alla Casa Bianca, abbiamo chiamato il nostro amico e corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero, che salutiamo con piacere. Mario, ciao, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Senti, ma sei saputo, ci sono echi del molto dire di Gheddafi in Italia, negli Stati Uniti sono arrivati? Ma direi zero in realtà, no, la stampa americana non ha parlato, sai, ovviamente Gheddafi è a casa nostra, quindi certo. Come dicevi tu, la stessa presenza fisica, la città, le televisioni, gli incontri con i nostri personaggi, eccetera, eccetera, ma direi qui per ora almeno non se ne è parlato, proprio perché è una vicenda così un po' nostrana e comunque Gheddafi è anche una vicenda che appartiene al passato. Non so se poi qualcuno ha ricordato a Gheddafi il famoso volo Panama. Certo. Che curiosamente non è, ma sulle stesse, insomma, come dire, è rimasto un po' fuori dal vasto immaginario che è stato ripercorso su e giù in questi giorni. Ecco, se qualcuno magari avesse detto a Gheddafi che dei suoi uomini avevano dato giù un volo della Panam, beh, allora forse le cose si riequilibravano, sai? Certo. Uno degli accordi di fondo fu proprio su quello, l'America tenne molto duro sulla questione del Panam 103, perché ricordiamolo che esplose nei cieli della Scozia. Certo. Quindi gli embarghi, il senatore Ted Kennedy, mi ricordo, era uno dei più decisi, determinati, quindi stiamo parlando di persone comunque illuminate, non di neocon decisi ad attaccare il nemico, e quindi l'escalation di questa relazione libica, libico-americana, è stata un'escalation che ha avuto una sua dinamica molto precisa, molto dettagliata, così insomma, ecco, quindi ci sono sempre due pesi e due misure. Ti dirò, mi colpisce molto per esempio che il nostro governo non mi sembra abbia in questa occasione sollevato la questione dei profughi italiani che furono cacciati da Gheddafi nel 1969 dalla Libia. Ma guarda, in sostanza ha sollevato molto poco, ha sollevato solo un gran polverone Gheddafi nel corso di questa visita. Sì, esatto, cioè sono comunque erano 20.000, 25.000, 30.000 certo, italiani che sono stati così buttati fuori dalla Libia dal giorno alla notte, e ai quali è stato letteralmente sequestrato tutto, quindi ecco, e così c'è sempre molta così indulgence, come si direbbe qui in America, in certe situazioni. Ecco, detto questo, è importante poi avere il dialogo, la Libia davanti a noi, è importante così partecipare a questa bagarre. Ma tornando all'America, l'America ha chiuso l'affare libico perché ha messo a posto la questione Panam. Gheddafi ha dato la sua prova di buona fede pagando, rimborsando, diciamo così, le famiglie delle vittime, e poi soprattutto la vera prova di buona fede che è giunta da Gheddafi c'è stata con l'accordo sul nucleare, con la denuclearizzazione. Ecco, sembrava che fosse un accordo quadro dal quale poi sarebbero partiti altri accordi simili. In realtà poi non è stata così, e forse Gheddafi, chissà, magari si pente se avesse tenuto duro, però allora Gheddafi si spaventò molto della situazione post 11 settembre. Senti Mario, quindi questo possibile, come dire, prolungamento, allargamento, approfondimento di incontro che si dovrebbe tenere tra Obama e Silvio Berlusconi, che ricordiamo è in partenza per gli Stati Uniti, domenica sera sarà a Washington e lunedì sarà operativo, insomma, con i massimi vertici americani, non dovrebbe riguardare Gheddafi, è più probabile che riguardi, non so, macchine con quattro gomme è un mercato da rilanciare, vogliamo ipotizzare. Sì, beh, sì, sicuramente credo che sia. Sono tutto, cioè il rapporto Gheddafi è bilaterale fra noi e la Libia, voglio dire, c'è un legame, c'è una storia, c'è una fornitura di petrolio, ci sono forniture industriali che noi facciamo, c'è una storia molto molto forte sul piano bilaterale. Ecco, questa storia bilaterale diventerà una storia bilaterale con gli Stati Uniti, e credo che il tempo che il nostro Presidente del Consiglio avrà a disposizione per incontri di lavoro con Barack Obama, penso, immagino, credo, insomma, che saranno dedicati soprattutto alle questioni bilaterali, e certamente meno male che l'accordo Fiat Chrysler si è fatto, e che si è fatto prima dell'arrivo di Berlusconi, almeno un piccolo ostacolo non è più lungo la strada. E poi, sai, resta aperta la famosa questione degli elicotteri, la fornitura di elicotteri finmeccanica, su cui devo dirti la mia opinione è che la Casa Bianca o comunque il Pentagono abbiano così un po' peccato di leggerezza alla fine, perché hanno fatto passo più lungo della gamba, come si diceva una volta, forse. Beh, hanno montato una questione un po' populista, dicendo ma gli elicotteri vecchi vanno benissimo, possiamo tenerli. Questi costano così cari, ma la realtà delle cose è che gli elicotteri in quanto tali non costano tanto. Quello che costa è il servizio di sicurezza e di modifiche per la sicurezza degli elicotteri presidenziali richiesti dal Pentagono e dai servizi segreti del Tesoro che servono alla Casa Bianca per rendere questi elicotteri addirittura immuni a un attacco al plutonio, capisci? Cioè, delle cose veramente così da super futuro. Per cui la questione, secondo me, resta aperta sul piano tecnico e sul piano finanziario. Adesso si tratta di capire anche un po' come, se e come il presidente Obama potrà fare marcia indietro su questa cosa. E la via di mezzo potrebbe esserci se alla fine ci si rende conto, beh, invece di spendere 11 miliardi di dollari ne spendiamo 5, ne spendiamo 4, che poi era il costo originario fissato. Quindi potrebbe essere anche uno scontro. E poi vabbè, ovviamente questioni politiche, secondo me ci sarà una notizia, così secondo me formalizzerà il presidente Berlusconi il fatto di accogliere dei prigionieri di Guantanamo. Ci sarà la questione dell'Afghanistan, si disputerà di truppe, insomma il presidente Berlusconi è sempre stato molto aperto vis-à-vis l'America, indipendentemente poi da chi fosse seduto alla Casa Bianca. Devo dirti che ho parlato quando mi trovavo a Parigi per la ricorrenza della Normandia con qualcuno di molto vicino al presidente, chiedendo un po' anche che tipi di umori, di situazioni ci fossero, insomma, per questo nostro presidente del Consiglio, che arriva così con un'aurea anche un po' garibaldina, no? con una serie di problemi in casa sul piano politico. Certo. Ecco, allora la risposta è stata, devo dire, mi ha colpito, molto pragmatica, perché all'accenno, per esempio, sull'abbronzatura, che peraltro ha fatto anche Obama più volte, come scherzo l'ha usato lui, quindi ma se lo usa lui perché non lo deve usare un altro? La risposta è stata: chi pensa che queste cose, che sono delle cose di cotè, che sono delle cose che non riguardano la vera politica, entrino in qualche modo nella testa di questo nostro presidente, non ha capito niente di Barack Obama. Barack Obama è un pragmatico, deve parlare di lavoro, ci sono una gran quantità di problemi, quindi risolviamo i problemi che ci sono senza doverne creare gli altri che peraltro non esistono. Quindi l'idea è che si parta sul piede giusto, poi vedremo come sarà il body language, ma Obama è comunque un uomo riservato. Avete visto che per esempio a Parigi non è andato alla cena con Sarkozy, insomma è un uomo che è diverso dal suo predecessore dal punto di vista del rapporto diretto con l'interlocutore. Senti, abbiamo ancora pochi secondi, ma li vorrei spendere per avere due parole da te su questo episodio di ieri, che ci ha fatto un po' rivedere, seguire di nuovo l'Obama di una volta, che prende parte, va nel Wisconsin, va a Green Bay, dove c'è la famosa squadra di football professionistico, va in una scuola e parla di salute. In sostanza l'argomento è enorme, la riforma della sanità americana sappiamo che è il grande obiettivo, ma anche il grande ostacolo che Obama deve affrontare, col quale si deve confrontare e forse deve ancora cominciare seriamente a farlo. Ecco, ma semplicemente da te un auspicio, ma anche un pronostico: è sulla strada giusta o rischiamo di assistere a un altro naufragio sullo specifico, come quello dell'ultimo suo predecessore democratico e della sua signora, che tanto si impegnarono su questo argomento? Ma guarda, proprio oggi abbiamo pubblicato una lunga inchiesta su questo sul giornale, e chiacchierando un po' con persone che seguono questa vicenda, l'impressione è che oggi la situazione è cambiata. Allora ci fu una campagna della paura, si disse attenzione, perché se si va avanti con questo piano, voi americani, voi 130 milioni di americani che avete adesso l'assicurazione e siete tutto sommato contenti di averla, la perderete, pagherete lo stesso, però finirete sotto l'ombrello dello Stato, non avrete più la flessibilità che avevate prima, e dunque la maggioranza dei 130 che ha paura di perdere i servizi, tutto sommato di alta qualità, a cui aveva accesso, aveva prevalso sulla necessità, sull'idea di fare un sistema pubblico che potesse coprire anche quei 40 milioni che invece non sono coperti. Ecco, siamo nella stessa situazione, però questa sindrome della paura sembra che ci sia molto meno. L'idea che lo Stato tutto sommato può fare qualcosa di buono, soprattutto dopo questa crisi, c'è. Che il mercato portato all'eccesso poi faccia dei trucchi, c'è, e quindi questo fatto, sai, se uno fa il trucco sulla finanza o sul subprime, beh, si perdono dei soldi, ma se poi si fanno dei trucchi sulla salute si perde la vita. Quindi io credo che arriveremo a una campagna mediatica enorme, fortissima, sarà la vera grande battaglia da qui al prossimo autunno. Obama porta il suo messaggio al grande pubblico americano, ma sarà una battaglia oggi come allora che si combatterà a Washington. Gruppi di lobby, Camera di Commercio, ieri la Camera di Commercio americana ha organizzato una struttura ad hoc per combattere il piano di Obama, una struttura su internet, i sindacati sono schierati col presidente, i gruppi imprenditoriali, i gruppi di base repubblicana, di grassroots repubblicana sono contro, quindi tutti stanno affilando le armi, sarà una battaglia durissima, di posizionamento, interessantissima, ma a differenza di allora oggi, diciamo, Obama ha il 50% di farcela, che è già una percentuale molto buona. Grazie a Mario Platero, è naturalmente uno dei centri interesse su cui seguiremo l'operato della Casa Bianca. Obama non più tardi di ieri ha garantito che con la riforma sanitaria non aumenterà il deficit, vedremo se gli americani gli crederanno. That's what it is. Oh yeah, what is it? guardate che non tocca soltanto a noi, anzi c'è una curiosa sincronia nell'avvenimento. Infatti alla mezzanotte e un minuto, ora americana, naturalmente, ma insomma manca veramente pochissimo, anche gli Stati Uniti d'America si convertiranno interamente, per quello che riguarda la televisione, il servizio televisivo, il segnale televisivo, al digitale. Sono ancora 6,5 milioni le case, soprattutto abitate da persone molto anziane o da persone povere, nei quartieri poveri, che utilizzavano il vecchio segnale analogico. Da mezzanotte, ora americana, riceveranno soltanto rumore bianco, nulla, non più immagini, non più servizi. Tra l'altro vi ricordo che questa iniziativa è stata a febbraio ritardata di 4 mesi, posposta di 4 mesi, proprio perché ci si è resi conto negli Stati Uniti che la conversione non era avvenuta in termini sufficienti e soddisfacenti. Adesso si è deciso di tagliare a testa al toro l'America. Nella notte che ci attende si converte interamente al digitale. Una nuova precisazione riguarda James Von Brunn, l'uomo che 2 giorni fa ha aperto il fuoco uccidendo una guardia al Museo dell'Olocausto di Washington. Ebbene, aveva legami con il BNP, il British National Party, di cui abbiamo parlato proprio un paio di giorni fa con un approfondimento, e ne parla oggi il The Guardian, il quotidiano progressista inglese. E il James Von Brunn, che è un convinto assertore della supremazia della razza bianca, avrebbe partecipato a diversi incontri della branch, del settore americano del British National Party, che si chiama AFBNP, incontri destinati a raccogliere fondi fra gli attivisti dell'estrema destra americana per il partito britannico, che è appena riuscito a conquistare 2 seggi nel Parlamento europeo. Infine, un'ultima notizia che farà piacere forse ai commuter aerei americani, ma non solo, anche a quanti di voi prendono voli interni americani, ma credo farà arrabbiare moltissimo animalisti e ambientalisti in genere. Vi ricordate, vi abbiamo parlato della commissione che ha ispezionato, ha cercato di capire, ha esplorato, ha indagato sul famoso incidente aereo di New York, per fortuna del tutto incruento, il volo US Air che atterrò nell'Hudson grazie all'abilità del capitano Sully, come ormai tutti lo chiamano, colpa di aerei infilati nei motori del jet. Ebbene, per proteggere la zona aerea, la zona, i corridoi aerei attorno a New York, è stato deciso di gasare 2000 oche selvatiche. Le conclusioni e il dibattito lo lascio a voi. I titoli, le foto e tutto il resto. Bene, buon weekend da Jefferson 2, l'arte della svolta. Spero di avere una voce migliore la settimana prossima, se l'aria condizionata me lo permette. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, Facebook redazione Jefferson 2 oppure jefferson2@radio24.expressyourself. La replica a mezzanotte, se no ci sentiamo lunedì dopo le 4 qui su Radio 24. Buon weekend a tutti.